Come sta la famiglia Balde nel 2024? Je réponds au nom de Baldé Thierno Hamidou. Je Mi m'adresse a chiamo vous au Balde nom de la Tierno famille Hamidou. Parlo a nome della famiglia di mio Mohamed Moussa fratello Baldé, paix Mahamadou sur lui, Moussa s'il vous plaît. Balde. Avant de Pace e commencer benedizioni su di l'intervento, lui. laissez-moi vous Prima adresser di la iniziare, salutazione permettetemi di inviare i miei saluti a voi à vous et à e a tutti i l'ensemble vostri des auditeurs ascoltatori e et auditrices. ascoltatrici. En ce qui concerne cette première question, nous Riguardo disons questa que prima cela va domanda, comme diremo che le cose prescrit. vanno Et per nous grazia di Dio, constatons anche que se par rapport l'assenza à di nostro l'absence fratello lascia un humaine, grande vuoto. ça va, Dieu merci. Alhamdulillah, ça va. D'une façon Tutti générale, sappiamo tout le che monde nostro sait fratello que è notre morto in frère, Mohamed circostanze Moussa Baldé, veramente paix sur lui s'il difficili, vous che plaît, est nessun mort essere dans des umano può circostances augurare al suo humaines et difficiles prossimo. qu'aucun être humain ne peut souhaiter à son prochain. Il 13 marzo sarà tenuta la prima udienza del procedimento per omicidio a carico dell'ex direttrice del medico del CPR di Torino e degli agenti di polizia accusati di falsificazione. Quali sono le responsabilità delle autorità italiane ed europee coinvolte in questa storia? Oui, effectivement, Sì, les i avocats legali nous ont ci hanno notifié comunicato che que la la prima première audience du udienza del processus processo giudicale si le 13 terrà mars. mercoledì Du coup, 13 nous estimons marzo. que la justice italienne est Riteniamo une che la justice giustizia libre et italiana sia indépendante. una giustizia Donc, il n'y libera a e aucune indipendente, quindi autorité, che non aucune ci saranno contrainte vincoli qui o pesa su autorità lei. a pesare su di lei. Che Che dire della giustizia italiana? Cosa pensa del giudizio degli aggressori di Moussa? Pour ce qui concerne le Per quanto jugement des riguarda il agresseurs giudizio de degli notre aggressori frère di Mohamed Moussa, pace Moussa Baldé, paix alla à sua son anima, âme, non possiamo je dare ne un peux pas esito faire oltre une la appréciation conclusione che au hanno regard de ce tratto que gli les avocats ont tiré avvocati. comme conclusion. Abbiamo piena Nous fiducia avons in entièrement loro, confiance en nos perché avocats conoscono bene la et qui connaissent giustizia bien e il la diritto justice del vostro italienne, la loi paese. italienne. Donc, Quindi ci affidiamo alla on loro s'en remet à leur valutazione. appréciation. Merci. Quali sono le vostre aspettative per l'udienza del 13 marzo? Vi costituirete parte lesa in quest'udienza? Bon, notre attente par rapport La à ce nostra procès du aspettativa 13 da questo mars processo del est que 13 la justice soit marzo è che rendue sia resa à la giustizia famille alla famiglia di nostro fratello, de in pace notre alla frère sua Mohamed anima, ai Moussa Baldé, suoi paix à son compagni, âme, ai suoi à ses amici e collaborateurs, in à generale ses al mondo amis en intero, général perché et au monde è entier, anche un car fatto c'est che ha un acte scioccato grave, non seulement l'opinione l'opinion nationale, nazionale mais un come acte quella international à un internazionale. moment donné. On sait effectivement que Sappiamo rien ne che va amener notre effettivamente frère, nulla mais si riporterà la indietro justice nostro italienne fait bien fratello, son travail, ma se la alors la magistratura justice italiana farà il suo cela lavoro va e ci apaiser renderà le cœur, giustizia, y compris questo celui du placherà i défunt, nostri car cela cuori, va apaiser son compreso âme quello et del son cœur pour defunto. l'éternité. Donc, du coup, Quindi, nous di n'attendons rien d'autre que conseguenza, la justice. non ci aspettiamo altro che Oui, giustizia. effectivement, la famille s'est constituée en La partie nostra famiglia, civile. infatti, Nous si sommes en train de costituirà faire parte les civile démarches al processo. administratives et les Stiamo formalités sbrigando le d'appartenimento. procedure amministrative e Bien que cela ne soit burocratiche, pas anche se facile, non è puisque ça facile coûte ed un è peu cher. costoso. Questa per D'ailleurs, c'est noi, une occasion infatti, pour moi de è lancer un l'occasione di appello à rivolgere un tous et appello a ici, tutte le ceux qui persone ne in sont pas ascolto a votre questa interlocuteur et à trasmissione tous ceux qui di auront venirci in aiuto. l'occasion de réécouter cette Non è una émission, vergogna, il bisogno c'è de venir à davvero, Nantes. C'est un soprattutto monde, dal le punto besoin di est vista là, economico. effectivement, le besoin financier surtout. Pour les frais de voyage, Per pour les quanto frais de riguarda la le spese di procedure, viaggio e i costi afin que tous les procedurali, membres de affinché la tutti i famille membri puissent della famiglia assister, possano les partecipare, circostanze ne sont le pas circostanze non sono aussi così facili. semplici. Nous avons déjà Sappiamo che organisé a une Torino ci mobilisation sarà pour una venir ci faire mobilitazione. là-bas. C'est une occasion Cogliamo pour nous de l'occasione per réécouter ringraziare tutte le toutes les ONG, ONG, le les associations et les associazioni e le personnes de persone che bonne si sono volonté mobilitate fin qui si dall'inizio, sont levées depuis le vale a début, dire dalla morte, c'est-à-dire dal du rimpatrio décès della salma, ou dal rapatriement processo du dei suoi corps aggressori fino ad ora. Gli du procès de ses agresseurs jusqu'à maintenant, italiani les si sono fatti Italiens avanti per levés sostenerci. pour nous soutenir. Non Nous avevamo più n'avons la pas le sentiment. sensazione del vuoto. C'est comme Ci ha si fatto sentire nous come se étions fossimo italiani des anche noi. Italiens. Cosa pensate della recente morte di Ousmane Sylla, trovato morte nel centro di detenzione di Roma il 27 gennaio scorso? Oui, effectivement, c'est vrai, nous avons appris la Sì, mort effettivamente de ce abbiamo saputo chef anche della Sylla. morte di quest'altro C'est giovane, vraiment Ousmane triste Sylla. et È déplorable. davvero triste e deplorevole. Constatons par là que E vediamo che ce sono le sont les mêmes stesse causes cause a qui ont produrre gli produit stessi cet effet. effetti. autorità italiane dovranno veramente guardare Le con autorità italiane attenzione devono se osservare passa attentamente ciò che le accade all'interno di questo carcere, detenzioni, a come le si fa le condizioni di condizioni detenzione di e tutto ciò che ne detenzione, consegue non sono buone, se non vi pare immagini altrimenti internet non diverse accadrebbe di da quanto alzarsi una mandato pure mattina e di decidere di mandato farla mandarsi su. finita. È Se è difficile di provarci, difficile le crederlo, ragioni dovrebbero le essere ragioni devono chiare. essere cercate altrove. Effettivamente, se c'è una Il giovane intenzione di Usman farlo, abitava vicino a noi nella sono stessa vita città. la mia comune, La casa sarebbe dista solo reso 5 sostituita chilometri. da presa in chilometri Allora siamo vicini. andati a fare un Io mi sono saluto, a disarrangiato, confortare la sua famiglia, la esatto, per sorella, condividere la la famiglia, mamma, certo, un'anziana sa signora che è sorella, lì. sa mamma, in via Idam, chiedo. Stiamo quindi E cercando di tu mi capire sono come mettere in mantenuto a contatto gli come fretta avvocati per relazione determinare con cosa è l'avvocato realmente necessario Levi fare. e Per qua si ora chiede si sta se valutando come organizzare il pensa che rimpatrio della sono salma. le demarche per rapporto con il rapporto Proclara, non tengo Vogliamo veramente davvero nessuna ringraziare difficoltà, tutti gli avvocati. veramente mi fanno entrare Davvero, fanno un eccellente, grande come la lavoro. prossima all'incontro dei sei Siamo avvocati, grati di averli voi incontrati giornalisti e siamo grati ai depositate la stessa giornalisti che ci informazione aiutano a sulle collegare i altissime pezzi man mano che la tensioni situazione evolve. ONG Alle particolarmente a ONG tutte e le persone particolarmente a tutte le coinvolte, persone di buona volontà Kim Jong che ci Il, hanno sta aiutato finora. rientrando. Mi domando a Chiediamo alla comunità community torinese di di farsi sostenerci in questa difficile prova, che non superi soprattutto la settimana difficile mobilitandosi. proprio, soprattutto anzi mobilizza. Mi In domando occasione veramente di la questo mobilitazione processo di tutti, chiediamo ma davvero la di mobilitazione tutti i su Torino cittadini di di tutte e Leggero, tutti coloro che ci ascoltano adesso, solicita così come il l'assistenza, loro cosa aiuto morale, morale, finanziario finanziario o materiale. materiale. Ne Sa abbiamo davvero davvero veramente bisogno e contiamo bisogno. su di voi. Noi contiamo su lui, che sappia che Moussa era non ho nostro niente fratello da fare, biologico, ma resta anche là. fratello di tutti e Sono tutte tuo laggiù. fratello biologico, Ha sebbene bisogno di giustizia. mezzo sì, Per questo vogliamo la qui, vostra mobilitazione come si esseri avrà umani. bisogno di giustizia, Oggi ma quando viviamo, ci domani non ci troviamo siamo più, mobilizzazione, ma andiamo facciamo tutto il chiaramente, possibile d'ora in poi. questo Che di nuovo questo messaggio sempre giunga a che si buone sa su orecchie e che gli qualche italiani differenza sostengano la famiglia di durante il tutti gli italiani, processo. tolleranza, Grazie e sostiene la buona famiglia, fortuna. abbandonanza. Merci e buona continuazione a tutti.